fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho avuto conferma questa mattina, provocando gli amici che mi seguono in Facebook, che un pensiero piuttosto faticoso a digerire, a sopportare, è quello che noi siamo fatti di carne. Quando diciamo che subiamo delle sollecitazioni carnali, dei desideri carnali, sentiamo qualcuno, una situazione sulla carne, ci affidiamo ad osservare quelli che sono i processi di invecchiamento della carne, non consideriamo abbastanza, non vogliamo considerare abbastanza, ci rifiutiamo di pensare in maniera sufficientemente profonda cosa esattamente sia la materia carne. La carne ci inquieta perché noi la carne ce la mangiamo pure. Se parliamo di carne, infatti tutti facevano gli spiritosi, scherzavano sulla fettina, la bistecca, la coratella e via dicendo. Non pensiamo, non vogliamo pensare che in fondo quell'apparato che ci permette in maniera così sensibile, così evidente, di interfacciare il mondo con il nostro sentire, con la nostra profondità, con i nostri desideri, con le nostre ansie, con i nostri piaceri e con i nostri profondi dolori, sia fatto di carne. Sia la stessa materia di quella bistecca che noi mettiamo in frigorifero e poi ce la scordiamo, andiamo via qualche giorno, la tiriamo fuori, ha un cattivo odore. Quindi è qualcosa che in realtà si corrompe. Ma questa cosa che si corrompe in realtà è ciò che riesce ad impedire la corruzione della nostra fantasia, del nostro desiderio, del nostro sentirsi vivi. Beh, l'argomento questa mattina è proprio questo. Ci ricordiamo che siamo fatti di carne? Quanto è importante essere fatti di carne? Quanto ci accorgiamo della nostra e dell'altrui carne durante il giorno? Vi racconto, ma non vi leggo poi testualmente, se no sarei Umberto Broccoli, quello che è il passaggio letterario, forse poetico, che più a me suggerisce alcune risposte alla domanda che vi faccio. È una novella della Pescara di Gabriele D'Annunzio, è La veglia funebre. La veglia funebre racconta una storia che si consuma nel corso di una notte d'estate, una notte bollente sotto tutti gli aspetti, in Sicilia, dove è morto l'anziano sindaco, che aveva una giovane moglie e un giovane fratello, e si trovano di fronte alla veglia funebre, di fronte al cadavere del morto, sia la giovane vedova, sia il giovane cognato, chierico, seminarista, e sono lì con il rosario in mano, che sgranano il rosario, ma non sono indifferenti a ciò che sta accadendo in quel momento. Da una parte c'è una carne che si disfà, che se ne sta andando, è quella del cadavere, da una parte c'è una carne che sta riacquistando ferocemente e in maniera bramosa e famelica il possesso della vita. In fondo sempre di carne si parla. Il cadavere del sindaco Biagio Mila era già tutto vestito, con la faccia coperta da una pezzola umida d'acqua e d'aceto. Stava disteso sul letto, quasi in mezzo alla stanza, tra quattro ceri. Vegliavano nella stanza la moglie e il fratello del morto e due lati. E descrive D'Annunzio questa bella donna carnale, Rosa Mila, aveva 25 anni, fiorita, di carnagione chiara, con la fronte un po' bassa, le sopracciglia arcuate, gli occhi grigi, larghi, questi lunghi capelli che gli coprivano la faccia. E poi c'era questo chierichetto, questo ragazzo, aveva sempre la stessa età, magro, con il volto di colore bronzino, di chi vive nella campagna al pieno sole. Poi in questa mattina in cui si parla tanto di improprie letture delle abbronzature, mi sembra perfetta questa definizione della prorompente, scalpitante, giovanile virilità di un ragazzo con il volto bronzino, denti forti, bianchi, da un altro sorriso, una bellezza virile, appunto, dice D'Annunzio. E a un certo punto, mentre questi due stanno lì a screnare il rosario, il cadavere comincia a gorgogliare, una specie di gorgoglio roco esce dal cadavere e con orrore lei si stringe al chierico che succede. Lui dice che è naturale, sono gli umori che per la notte calda e torrida danno questo senso di gorgoglio. E questo fa sì che cominciano a prendersi la mano, si tengono la mano, e cominciano a sedersi su un cassettone, e si sfiorano i gomiti, e solo questo sfiorare di gomiti dà a quelle carni una sorta di fremito, e si accorgono che sono esseri umani fatti di carne. E qui D'Annunzio descrive in maniera mirabile, non ve la sto a leggere tutta, ma ve la riassumo, ciò che accade da lì a quei momenti. Immaginate una notte estiva, i trebbiatori fuori cantano perché si trebbia d'estate sull'aia con le fiaccole accese perché è fresco e durante il giorno si miete il grano. E la sera c'è la battitura sull'aia, è un momento carnalissimo e favoloso in cui tutto può succedere sull'aia fra contadine e contadine, ebri, ubriachi, stanchi, affaticati, con il rumore della trebbiatrice, la pula, il pulviscolo del grano, il vino che scorre generoso. Qui dalle finestre viene il profumo di zagra, viene il canto di trebbiatori lontani e lentamente il vento comincia a spegnere, quasi per una complicità fatale, i ceri. Intorno a questo cadavere comincia a puzzare, comincia a gorgogliare, comincia a seguire la natura della bistecca che si va decomponendo. Lentamente cominciano a sentirsi gli odori di queste due carni invece giovani che vogliono riacquistare il possesso della lettura dei propri sensi profondi attraverso la carne. E quindi venivano dalla collina d'Orlando, dice D'Annunzio, i profumi possenti dell'agrumeto, forse dai giardini di Scalia, i profumi delle rose così densi che davano all'aria il sapore delle confetture nunziali, forse dal padule della Farmia, le fragranze umide dei gaggioli che respirate deliziavano come un sorso d'acqua. Quindi profumi inebrianti e allo stesso tempo il cadavere si decomponeva, dava questo odore dolciastro della morte. A un certo punto l'ultimo soffio di vento spegne l'ultimo cero e i due non si muovono più, stanno ansiosi con gli occhi dilatati, fissi a guardare l'ultima fiammella che se ne va. Poi d'improvviso, quando questo vento inebriante la spegne, cosa succede? Dice D'Annunzio testualmente: senza temere l'ombra, con un'avidità concorde, nel medesimo tempo l'uomo e la donna si strinsero l'uno all'altra, si allacciarono, si cercarono con la bocca, perdutamente, ciecamente, senza parlare, soffocandosi di carezze. (800) 24 00 24 per richiamarvi alla necessità di dare questa mattina una definizione a ciò che noi intendiamo il fatto che siamo fatti di carne. Avete sentito D'Annunzio mette in mirabolante, meravigliosa concomitanza, quasi sacrilega contaminazione, la carne che se ne va, la carne che si disfà, la carne che ha fatto il suo tempo. Il vecchio sindaco non ha più ragione di esistere, sta lì, è testimone impassibile e impotente, forse in tutti i sensi, lo era anche in vita, sotto la sua pezzuola d'aceto, imbevuta d'aceto che gli toglie quell'odore di carne morta, mentre le carni ancora vive si riappropriano in maniera vorace del fatto che per essere esseri umani bisogna capire e conoscere il fatto che noi abbiamo una carne che ci a volte ci prende e istintivamente ci toglie dalla razionalità, da quello che è il nostro quotidiano. Quante volte durante la vostra vita, durante i periodi particolari della vostra vita, vi accorgete che la carne vi porta fuori di quella che sembrava una strada ben tracciata? 800 24 00 24, quanto ci lasciamo rapire, come ci lasciamo rapire, quanto è importante l'essere fatti di carne? Siamo soltanto sentimento, razionalità, orgoglio, istinto, senso del dovere, o siamo anche carne? E cosa significa essere fatti di carne? Beh, ce lo insegna questa mattina una nostra ascoltatrice cinquantenne che ci dimostra esattamente come ha fatto D'Annunzio, ma con una poetica molto più legata all'esperienza quotidiana, quanto la carne che rischia di dare segni di disfacimento in realtà allo stesso tempo ci dà segnalazioni formidabili e meravigliose di essere ancora capace a farci leggere il mondo. Mi ero separata nel 2003 e avevo 46 anni e mi sono iscritta a una scuola serale e avevo conosciuto delle ragazze che frequentavano i locali, non uscivo mai la sera, mai. E poi è successo che una sera una di queste ragazze mi chiama e mi dice: dai, esci con noi che ci facciamo una serata. E sono andata in un locale. C'era questa persona che è piuttosto prestante, ha 22 anni meno di me, sì, che prestante lo è sicuramente. Io ne avevo 46 e lui ne aveva 24, però io non sapevo la sua età. Per me è stato un colpo di fulmine e poi ho saputo che è stata la stessa cosa per lui. Mi piaceva il suo modo di parlare, il suo modo di muoversi, mi piaceva tutto di lui. Cioè io avevo visto che era più giovane di me, non sapevo la sua età, ho preso la cosa così alla leggera. 800 24 0024, stiamo cominciando a raccontare una contemporanea lettura di quella veglia funebre. La veglia funebre per la nostra cinquantenne è esattamente un momento di appannamento, di desiderio, di appannamento, di piacere, di sentirsi ancora fatta di carne, dedicata al lavoro, dedicata alla famiglia, dedicata ai suoi doveri. Quindi si dimentica del fatto di essere fatta di carne. Ma questa veglia funebre viene interrotta, come in quella notte estiva siciliana descritta da D'Annunzio con il canto dei trebbiatori, da delle amiche che la portano fuori, come se aprissero la finestra da cui entra il profumo della zagara, il canto del trebbiatore, la portano a ballare, a divertirsi. E lì incontra qualcosa che rappresenta il simbolo della carne non ancora in quella fase di frollato decadimento in cui lei immagina di essere. Ma il contatto e la concomitanza delle carni in diversi stati della loro storia terrena fa sì che scatta qualcosa che probabilmente 800 24 0024 sarà scattato in molti di voi, e mi piacerebbe che me lo raccontaste. Quando io gli dicevo: ma tu sei pazzo, sei fuori di testa a esserti innamorato di me, perché io ho 22 anni più di te, lui mi ha detto che non riusciva più a star senza di me. Mi sono innamorata come una stupida, e penso che il rapporto che ci tiene insieme è fatto di un tiramolla, che è una cosa incredibile, perché io lo tengo sempre come i cavalli con le briglie, no? Perché lui mi trascinerebbe in capo al mondo. Abbiamo un'intesa spirituale, che è una cosa che forse è dettata proprio dalla differenza di età, e un'intesa sessuale che io non avevo mai conosciuto, perché lui è irruente e io invece sono molto tranquilla, lui è pazzo. Vedete quanto è presente, anche se continuamente contaminato e attenuato dalla necessità di impugnare il sentimento, impugnare la spiritualità, che sono sempre gli additivi che mettiamo alle nostre vicende carnali. Dobbiamo sempre giustificare come ci fosse una differenza di rango, un'inferiorità indubbia di classificazione nei valori condivisi dall'umanità tra quelli che sono gli istinti carnali, chiamiamo istinti, quindi qualcosa di bestiale. Lei parla di cavallo a cui lei deve tenere le briglie, che però la trascina, la porta via, la porta lontano dalla razionalità. Dice: abbiamo un'unione profonda, spirituale, di sentimento, ma anche carnale. Noi siamo fatti di carne, ci sarà una ragione, ci sarà una giustificazione, ci sarà un senso profondo, ci sarà un disegno per cui la carne è la materia che ci compone. La carne è importante perché la carne ci fa sentire, la carne è capace di mettere in precario equilibrio tutto ciò che noi consideriamo valore, consideriamo razionalità, consideriamo pensiero, sentimento, tant'è che quando noi parliamo di carne dobbiamo sempre giustificarci. Però c'è anche il sentimento, perché il sentimento è più importante. Ma perché la carne viene considerata come qualcosa di vile? 800 24 0024. Mino, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un ottantenne in cui la carne, lo confesso, data, credo di avere una certa onestà intellettuale, non funziona più. Però mi sono accorto di un fatto. Non funziona, che funziona quanto può funzionare, no, 80 no, anni. Insomma, vabbè, ma appunto io non amo anche la retorica. No, no, ma figuriamoci, ma io invecchio ogni giorno, mi fa orrore. Però l'esempio di D'Annunzio, grande scrittore, specialmente per le cose sensuali, è quello, appunto, lei ha scelto bene il momento bello di D'Annunzio, soprattutto il suo impeto giovanile di amore per la passione e la vita. Però ciò non toglie, per esempio, che lui non ha l'esperienza di una vecchiaia tranquilla, dove, come mi succede, che io scrivo a tavolino, eccetera, e vedo che finita, diciamo, l'esuberanza della carne, o quasi spenta, però è aumentata quella mentale, quella psicologica, la riflessione estetica. Ecco, per esempio, queste sono le esperienze interessantissime della vecchiaia, secondo me, cioè quando la carne tramonta. Però nessuno come lei. Il fatto estetico. Guardi che, per esempio, tutta sì, l'arte non è in nome della giovinezza, dello slancio sensuale, ma in nome di una bellezza che è oltre la carne, cioè quello che è spirito, sentimento, eccetera. Tant'è vero che gran parte dei musicisti non è che hanno composto le cose in onore della passione sensuale. Però mi consento un attimo, Mino, volevo dire che è naturale è felice e è anche gioioso arrivare a un'età come la sua in cui si elabora il concetto di carne come unico e potente ricettore delle sensazioni che ci dà il mondo, quindi lei rielabora le informazioni che in tutto questo tempo ha acquisito tramite la sua carne e giustamente poi le incanala verso qualcosa di profondo. Io sto parlando di fasi della vita in cui la carne comunque può essere un valido, attento e importante indicatore del fatto che noi siamo vivi, e viene messa, secondo me, erroneamente o affrettatamente in un secondo piano. Guardi, io questa mattina ho lanciato questo test in persone che mediamente hanno un'età giovane, esuberante, in cui dovrebbe essere importante l'attenzione alla carne. E ho visto un grande tentativo quasi di esorcizzare il fatto siamo fatti di carne. Lei probabilmente dalla sua bella e veneranda età può raccontarci quanto sia stata importante nel corso della sua vita il fatto di accorgersi ogni tanto che la carne ci fa cambiare magari improvvisamente direzione. È la carne che ci comanda di cambiare direzione, se l'ascoltiamo o non l'ascoltiamo. Trova che sia estremizzato questo ragionamento? No, niente affatto estremizzato, perché guardi che io sono d'accordo sul fatto, e l'ho vissuto anch'io, insomma, da peccatore comune, tutti i fenomeni della carne. Però quello che mi ha colpito, che è stata la sorpresa della vecchiaia, che ciò che rimane profondamente nell'intimo, diciamo, del mio animo, sono le cose non carnali, cioè la musica di Mozart conosciuta per la prima volta, un'opera lirica vista, cioè nella memoria, nel deposito della memoria, proprio la carne è la cosa meno, come dire, che si riflette, si riverbera, diciamo, nella mia situazione attuale, nella memoria. Devo dire che la natura in questo è in fondo una madre affettuosa, fa sì che noi lentamente perdiamo la nostalgia per ciò che in realtà non ci risponde più come dovrebbe, ma questo mi sembra giusto, che rimangano poi le cose non dotate di corporeità, di consistenza. La materia si corrompe e ciò che va oltre la materia, che è spirito, che è pensiero, che è immaginazione, rimane, ha una vita un pochino più lunga, probabilmente poi anche questo si disperderà nell'oblio. Andiamo avanti ringraziando Mino con la storia della Nostra Signora perduta pazzamente come un cavallo in corsa per il suo giovane amante. Io lavoro fino alle 9 di sera perché ho un'attività. È capace di arrivare qua e mi dice: dai che andiamo a prendere sigarette. E invece mi trovo magari, io abito in una città del nord e mi trovo al mare, perché mi dice: adesso io ti faccio vedere l'alba. Ma dico: ma io domani devo andare a lavorare. E va bene, domani lavori, con il sonno ma lavori. E lo fanno i ragazzi giovani, quelle cose lì. Io non sarei mai capace di dire: finito di lavorare, vado a fare un giro al mare. Lui lo fa. Le uscite dal mondo possibili sembrano essere relative a varie fasi della vita umana. Ciò che per un ragazzo è normale, perché non ha impegni familiari, non deve tornare a casa, non deve mettere a letto i figli, non deve pensare che il giorno dopo deve assolutamente andare a lavorare, quindi essere lucido e essere disponibile, avere delle improvvise uscite dal suo tempo, cambiare itinerario, fare cose folli, prendere, partire. La gioventù dorata a Perugina, che io ricordo, ai tempi dell'università, quando bighellonava e vagheggiava stancamente, ore e ore avanti e indietro, lungo Corso Vannucci, cominciavano a entrare queste felici idee, tipo: andiamo a prendere il caffè a Firenze. E si partiva a nottetempo, dopo mezzanotte, si arrivava a Firenze, si tornava la mattina all'alba, ma non avevamo nulla da fare. Proporre questo a una cinquantenne con famiglia e con impegni naturalmente significa ancora di più dare delle sollecitazioni fortissime che la sua carne non avrebbe mai più immaginato di poter sentire, come senso di colpa, come fuga dalla responsabilità che è gravosa, penosa, ma allo stesso tempo liberatoria e piacevolissima. Quando vado a fare la doccia, no? Ho 51 anni, io provo non vergogna, perché fisicamente sono ancora passabile, perché non ho rifatto niente, non ho niente di rifatto. 51 anni non hai il fisico che può avere una ragazza di 20, e mentre lui, avendo 29 anni, ha un fisico di un uomo di 29 anni. E io provo sempre quell'istinto un po' di, non di nascondermi, però di un po' di disagio. Quando io vado a farmi la doccia, si spoglia e viene in doccia con me. E gli dico, ma lasciami lavarmi. E lui mi dice, ma è questo il momento giusto per stare assieme? Sono questi i momenti, quelli veri. Perché ho conosciuto tante ragazze giovani, ne ho conosciute di tutti i tipi. Se mi sono innamorato di te, mi sono innamorato di te dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. E mi sono innamorato soprattutto della tua anima. Cioè, quando un uomo ti dice così, porca miseria. Quante persone ancora sentono dirsi cose del genere? Quante persone ancora hanno il conforto del confronto di carni di età diverse e si rendono conto che ad essere apprezzate per la propria carne, anche in un momento in cui storicamente e culturalmente non dovrebbe essere più carne apprezzabile se non innestata, se non cambiata, se non modificata, avere la soddisfazione, la serenità e il conforto di qualcuno che apprezza la tua carne significa sentirsi vivi oltre ogni pregiudizio che ci imporrebbe il tempo in cui stiamo vivendo. Melog 2.0. Per me direi che una volta alla settimana mi fare assai poco. Io sto con un ragazzo bellissimo da 4 anni, siamo giovani e facciamo tantissimo all'amore, più di una volta a settimana naturalmente. E tutto il mio erotismo, io ho avuto la fortuna di, come dire, volgerlo verso di lui e poterlo completamente appagare. Buongiorno, io sono Ornella, 46 anni, un compagno più giovane da 7 anni e alzo la media perché lo faccio di media una volta al giorno se non due. Questa era il frutto di una delle tante indagini che vengono fatte per riempire le pagine dei giornali sulla frequenza dell'accoppiamento delle unioni carnali fra gli italiani. Pare che una volta a settimana sia il momento in cui ci si ricorda, perlomeno nelle unioni ufficiali, che ci si è fatti di carne. E la risposta del pubblico era questa: chi diceva che era una media sottostimata, chi diceva anzi che era una media generosa. Comunque ricordarsi della propria carne significa comunque svolgere un dovere, significa una ritualità che deve essere necessariamente soltanto digitale. O la carne ci dà stimoli, ci dà sensazioni, ci dà avvisaglie che vanno anche oltre la sfera della semplice genitalità. A proposito del racconto della Pescara che vi ho fatto prima e della veglia funebre di D'Annunzio, mi ricorda un ascoltatore via Facebook che in realtà D'Annunzio in qualche maniera cita Petronio. È vero, nel Satiricon c'è la storia della matrona di Efeso e del soldato che assomiglia molto. A me piace più di questa versione quella di Fedro, e ve la sintetizzo visto che l'argomento è comunque lo stimolo carnale che in realtà sembra cambiare improvvisamente, o cambia improvvisamente il corso delle vicende. Una bellissima donna di Efeso rimane vedova e diventa esempio di rettitudine e di fedeltà oltre la morte, perché passa tutti i suoi giorni, tutte le sue notti in lacrime e in afflizione davanti al sepolcro del marito morto. A un certo punto, nel luogo dove sono sepolti i morti, alcuni ladri cominciano a trafugare le salme per prendere gli oggetti preziosi. Decide il governatore del posto che metterà dei soldati a guardia dei sepolcri, perché nessuno possa più compiere naturalmente questo atto sacrilego, e prende i ladri presi vengono attaccati e crocifissi come monito verso la popolazione. Il soldato comincia ad essere colpito e rapito da questa bella donna bellissima, comincia a partecipare al suo dolore, la guarda, la scruta, gioco di sguardi, lei si accorge di lui, nasce comunque una sorta di sottinteso carnale, di desiderio, di passione non consumata di fronte appunto a questo sepolcro dell'uomo morto, proprio come in D'Annunzio. Accade che una notte in cui loro due sono così presi da questa sorta di corteggiamento, di palpeggiamento a distanza, che dei ladri trafugano un cadavere. Il soldato è perduto. Quando si accorgeranno l'indomani che è stato trafugato un altro cadavere, lo uccideranno, gli taglieranno la testa, appenderanno lui a quella croce al posto del ladro. E allora la vedova improvvisamente cambia direzione, cambia via, colta da passione per quest'uomo. Non entro nel particolare se è stata consumata o consumata questa passione, c'è sempre uno scambio di carne. Dice al soldato: prendi il corpo di mio marito, attaccalo al posto di quello che hanno rubato e tu sarai salvo. Quindi improvvisamente il palpito carnale mette in secondo piano quella dedizione per una carne in disfacimento e faccia di questa donna un esempio. Rosa Maria, buongiorno. Buongiorno. Intanto lei ha una voce dolcissima. Sì, adesso andiamo No, vabbè, ho inciso. Non si lasci prendere da palpiti carnali in questo momento, perché dobbiamo parlare della carne in senso lato astratto. Vabbè, è una battuta, si può fare, no? Assolutamente, guardi, io sono qui a estigare, allora, altro che battute. Buongiorno a tutti. Dunque, senta, prima di tutto io... Intanto ho 69 anni, quindi tanto perché lei abbia un'idea di... Tanta bella gioventù all'ascolto la mattina, mi fa piacere, prego. Appunto. Allora, senta, meno male che è finita o sta finendo questa storia di demonizzare la carne, che purtroppo la nostra religione ha... Sì, però signora, mi permette, la religione la demonizzerà, è vero, indubbio. Ma ci dà una grande soddisfazione quando ci accorgiamo che ce l'abbiamo, proprio perché è così demonizzata. Sì, vabbè, ma è stata non è voluta dal nostro Vangelo, eh? Sì, ma adesso non entriamo nel... un po' bene. Sì, ma guardi... non esageratamente come hanno fatto. In ogni modo adesso sta finendo, perché tanto c'è un razionalismo anche in questo, quindi chiuso l'argomento. A me che ci ammazzerà ogni palpito carnale, però, un razionalismo. Perlomeno la religione ce la faccia sentire. No, non in questo senso, no, razionalizzare nel senso da dire adesso occupiamoci della carne proprio nel suo valore. Lei se n'è occupata nella sua vita, signora, della sua carne? E come? Ciò io sono tra quelle donne che proprio per questa di quello che c'è stato in precedenza mi sono beccato un marito che mi ha dato un sacco di botte. Vabbè, perché comunque... non lo conoscevo prima e si è trasformato in un mostro dove. E poi dopo me ne sono staccata e finalmente ho trovato una persona che mi rispetta, eccetera, eccetera. E lo dico pure alle signore di una certa età che hanno perso, chi ha perso il marito, che ha avuto un bravo marito, stupendo, vivono nel loro ricordo, va benissimo se desiderano. Però... Come la matrona di Efeso che vi ho appena detto. Ecco. Precisamente, bisogna appunto anche razionalizzare, ma nel senso anche interiore, del cuore, la razionalità nel cuore, ecco. Va bene, allora... signora, guardi, lei furbetta, 60 anni, quindi ha capito come maneggiare le parole, lei sta sfuggendo, io sto parlando di carne. Questa mattina sto compiendo qualcosa che in realtà è un atto criminale e pagherò carissimo. Di carne non si può parlare, non si può ammettere, qualcosa che comunque esiste, la chiamiamo passione, desiderio, peccato, la chiamiamo come vogliamo, perché non la chiamiamo semplicemente carne? Cioè, lei che sensazioni ha avuto nel corso della sua vita passionale, sia dalle botte che sentiva del primo marito, sia dalle carezze che sentiva del secondo, quindi probabilmente la carne è sempre stata sollecitata. Ma come no? Ma noi abbiamo bisogno di questo contatto. Noi donne poi dobbiamo essere gratificate, come è stato detto prima, proprio nel corpo, cioè noi viviamo con questo, ma sempre, fino alla morte penso, noi donne, io ho l'esperienza di donna, noi abbiamo bisogno proprio di questo, infatti ci sono proprio dei detti che la donna è morta quando nessuno la guarda e l'uomo, morto relativamente, insomma, se sia, e invece l'uomo quando non guarda più. Poi subentra la spiritualità, come è stato detto, però è una mancanza di qualcosa, ecco. Quando si moriva prima non si faceva in tempo a sentire queste cose, invece adesso, andando avanti, abbiamo tutti questi mutamenti che noi sentiamo. Comunque io però volevo dire una cosa agli uomini, a lei. Ascolti, il che è un problema anche di molte donne, molte giovani, Io ho ripercepito, cioè voi uomini quando tradite la moglie, a cui molti dicono che ma io voglio bene a mia moglie, ma però sono attratta da questa e non mi dice niente, lei non va oltre questo. Sì, però signora, di solito quando si tradisce con un'altra persona che ha situazioni simili, quindi non è che io mi prendo allora, tutto il peso delle responsabilità. Capito. Sì, non è che si tradisce da solo un uomo con un altro uomo, può anche farlo, sì, non dico di no, ma si tradisce assieme a una donna, quindi... Vabbè, ma questo uomo che sentimenti ha, cioè... Che cosa c'è? Perché noi quando tradiamo in generale, la nostra generazione, non so quella più giovane, noi donne tradiamo perché ci ha deluso, l'altro non corrisponde più a noi e a noi ci disperiamo e quando troviamo quello che ci fa una carezza, perdiamo subito la testa. Perché abbiamo bisogno di questa... Signora, guardi signora, è un altro tema il tradimento. Vogliamo, in questo momento trascendevo da ogni situazione civile, costituita, reale e benedetta. Semplicemente parlavo di carne allo stato puro. Poi se le donne quando tradiscono hanno la giustificazione del fatto che lo fanno perché il loro uomo non è più all'altezza, non gli presta più attenzione, gli uomini lo fanno con più leggerezza, è un altro tema, ne parleremo. Non deviamo e non fuorviamo perché di carne vogliamo parlare. Buongiorno Maurizia. Buongiorno. Allora, io vorrei... Vediamo se lei è brava a uscire dal luogo comune, le faccio un regalo. Allora, sì, fa bene la signora veneta con il suo giovane amante, perché nonostante l'età, le auguro che possa andare avanti per tanto tempo, e comunque, quello che lei vive, sta vivendo, vivrà, per quello che vivrà, è meraviglioso, perché la carne è così, e ci dà... un sorriso stampato tutti i giorni che non vale nessun lifting, no? Ne vale ancora di più. Non trova che questo accanimento nella conservazione artificiale della carne tolga attenzione e tolga ricettività nel considerarlo per quello che è? Sì, è vero. Bisognerebbe fare qualche cosina in meno... Però mantenere quella carnalità di più. Certo. E fare qualcosina in più quando capita, sì, forse. Sì, esatto. È vero, è proprio così, perché altrimenti si diventa distanti. Lei lo fa? Dunque, io sono separata, mi è capitato, sì, mi è capitato. E la carne era importante, non ha mai tanto. Dato giustificazioni perché il mondo mi trascura, perché l'umanità è cattiva, perché la mia psicanalista me l'ha consigliato, perché in effetti è un amore puro. Esiste una dignità della passione e l'attrazione carnale fino a se stessa, pura, senza giustificazioni e senza palliativi? Sì, se la persona, l'uomo o la donna sentono la carne esattamente... In quella accezione, va bene. In quell'accezione e in quella cosa. Grazie signora. Melog 2.0. Sono tra quelli di una, due al mese. Dopo 30 anni con la stessa donna, capirete. Purtroppo non mi trovo d'accordo per quanto riguarda una volta a settimana, perché le donne hanno spesso il mal di testa e non si trovano più queste donne che amano l'altra parte del sesso. Sì, una volta al mese sicuro, questa è la media, perché sposato, non di più, impossibile. Ma chi è che decide quante volte alla settimana o al mese uno deve fare l'amore? Ma saranno c***i nostri, ma io dico, ma perché bisogna entrare nella casa delle persone e andare a rompere giù c***o o a m***o? Ma insomma, se uno lo vuole fare una volta all'anno, una volta all'ora, sono c***i nostri, e che palle! Cosa ha a che fare la frase se uno lo vuole fare con la percezione, la fantasia, la immensa sorpresa che può darci la carne e che cerchiamo di definire questa mattina? Vi metto a confronto questi messaggi di alcuni uomini che definivano a modo loro le necessità o il dovere dell'incontro carnale, che è qualcosa che è ben lontano dalla carne. È qualcosa che infatti si consuma vestito, si consuma in pigiama, con i calzerotti, sotto le coperte, sotto le lenzuola. Ben poca è la carne che in quel momento dà sensazioni, ben poca è la carne che in quel momento ci dà l'impressione di essere vivi. Invece dice Irene, scrivendolo su Facebook, la carne contiene l'odore della nostra anima. Nel desiderio di conoscere l'anima altrui, la carne diventa l'elemento da consumare affinché quest'anima venga fuori. Il piacere della carne è immediato, travolgente, ma spesso nel momento in cui l'anima sta per venire fuori ci si sente così appagati dalla carne che non si ha più voglia di continuare a scavarci dentro. È chiaro, quando si orienta molto, profondamente, in maniera stancante, faticosamente piacevole la carne, a un certo punto si dice, vabbè, l'anima, possiamo conoscerla un'altra volta. Giuliana, buongiorno. Buongiorno a voi. Davvero mi piace ascoltare questa trasmissione perché... Lei personalmente non dà giudizi su ciò che ascolta, e questo è molto buono perché permette alle persone di... Ma chi sono io per dar giudizi, scusi? Lo so, però spesso accade. Comunque niente, volevo semplicemente dare... Io semmai certifico, confermo e amo pregiudizi, ma giudizi non ne do mai. Certo. Beh, parliamo della carne, sennò qua ci aggiriamo intorno... Allora, niente, io semplicemente... semplicemente ho 48 anni. Quanti, scusi? 48. 48. Oh, sì. Finalmente una ragazza, perché... Grazie della ragazza. Viaggiamo sull'ottantina. E ho fatto forse quello che spesso fanno le persone della vita in questo momento, ho cresciuto i miei figli per scelta molto giovane. Sì, vabbè, questo fa parte dei doveri, parliamo della certo. carne. No, questo c'entra con la logica della trasmissione di questa mattina. Io mi sono separata e ho avuto un periodo di grande riflessione personale. In questa riflessione, in questo periodo, mi sono resa conto che c'era una parte di me che non avevo colmato ed era proprio questa, la carnalità. E c'è riuscita a colmarla poi? Sì, e questo mi ha permesso di utilizzare, tra virgolette, di conoscere il mio corpo come mezzo per conoscere il mio lato emozionale, perché le emozioni vengono fuori solo attraverso il corpo. Ma scusi, adesso non voglio entrare, ma ci ha messo 40 anni per capire che le emozioni passano attraverso il corpo? No, certe emozioni ovviamente, però in questo senso... No, io sono d'accordissimo, non ci sarebbe emozione se non ci sarebbe un corpo che ci dà la sollecitazione di queste emozioni. Questo è straordinario secondo me, veramente. Ovvio che poi ognuno ha i suoi modi o i suoi tempi, o le proprie esperienze che è necessario, secondo me, che viva, perché se non si vivono, comunque il nostro corpo ce le chiede, perché ha delle necessità. Noi siamo fatti di carne e di spirito, secondo me, ed è, come dire, la difficoltà o il gioco della vita è avere un equilibrio in questo, utilizzando il corpo. Io non vorrei andare oltre su questa strada, poi mi accusano di essere un istigatore demoniaco dei tiepidi palpiti delle signore tranquille, però si rende conto. Era percepibile, la signora cinquantenne che ci ha telefonato, era percepibile che questa carne era stata maltrattata per i primi 48 anni della sua vita, e l'esplosione poi è tanto più forte quanto più è stata repressa. Non mi si venga a dire, tutti abbiamo esperienza di vita, tutti conosciamo, abbiamo amici e amiche che ci raccontano, per non parlare di esperienze in primo piano, che non bisogna mai farlo, sennò si creano altri problemi. Però le carni compresse sono terrificanti quando poi sciolgono le briglie. Accadono cose che uno non vorrebbe mai aver pensato e immaginato, o forse vorrebbe pensare, immaginare e condividere. La carina è che però va bene anche così, perché ritornando a quello che diceva all'inizio, chi siamo noi per giudicare tantomeno noi stessi? Grazie Giuliano, auguri e buona scorpacciata. Paolo, buongiorno. Buona giornata anche lei. Chiedevo, sto notando che questo contenitore che è il nostro corpo non è stato educato a capire cosa contiene. Infatti, guarda caso, già da 14 anni droghe, eccetera. Io parlo anche da sportivo, gente che si è abituati a conoscere il corpo e usarlo proprio nel concetto come oggetto che ci permette di muoverci, di portarci dentro noi. Quindi chiaramente dopo ci sono le emotività, c'è tutto, poi dopo c'è anche l'erotismo, anche perché molte volte sento lì, a mio avviso, c'è qualcuno che poveretto non ha avuto e quindi adesso deve riempire dei vuoti nella crescita della giovinezza, quando c'è emotività. Infatti noi abbiamo l'intelligenza emotiva e l'intelligenza razionale, quindi che poi crea un talento, quindi man mano che si cresce si va a maturare, a mettere insieme questa che poi è un'etica, un modo di essere, e quindi si deve crescere fluttuando, accettando il proprio corpo. Ma se invece già da 14 anni questo corpo lo andiamo a massacrare, se non ce ne freghiamo niente, ma lo usiamo in un modo improprio, dopo si crea quella cultura. Aspetti Paolo, con calma, vediamo di cogliere. Lei dice, se uno ascoltasse il richiamo, la sollecitazione, la curiosità, il fremito della carne nella maniera giusta, non avrebbe bisogno di usare delle sollecitazioni estreme artificiali della carne. Prima parlavamo della chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica, lei dice, perché la notizia che è andata nel giornale di Radio 24 pochi istanti fa, cresce il consumo di cocaina anche nei giovani. Bravo. Perché i ragazzi hanno bisogno di sniffare cocaina, esatto, per sollecitare delle sensazioni che basta stare a ascoltare. Io sento le telefonate di queste signore, ho una certa età, ma capisco che esiste in giro una tal dispersione nell'aria di sensazioni, di potenzialità, di profumi, desideri, che basterebbe mettersi in ascolto, sollecitare le narici e il proprio udito, ci sarebbe altro che cocaina in giro per potersi, bravo, esaltare. È d'accordo? Certo, ma dico bene, non... Sì, però lei è uno sportivo, per lei carne significa muscolo, velocità, no, record. No, identificazione, perché ho avuto la fortuna che posso fare lo sport, ma come assiste, ma non voglio fare del milismo, persone che hanno difficoltà di motorie, mi partecipo con le persone, perché col mio corpo posso, con la mia teleportata... Mi risponda solo sì o no, per lei la carne è anche una gioia? Certo, deve essere per forza. Bravo, complimenti. No, mi piace, perché ridiamo dignità oggi alla carne. Paola, buongiorno. Buongiorno, ciao. finalmente posso dire che sono veramente stufa di sentire che l'amore non va di pari passo con la carne. È inconcepibile, perché sappiamo benissimo che vanno di pari passo, e arriva anche un punto in cui i rapporti la maggior parte finiscono perché semplicemente non c'è più l'attrazione, manca la passionalità della carne, e qui coincide con la fine di molti rapporti. E se non riusciamo a capire questo, non abbiamo capito niente dell'amore, perché sono assieme e vivono assieme e vivranno per sempre così. E lei come vivono? Io l'ho vissuta con un bellissimo matrimonio, naturalmente un matrimonio che dura da più di 20 anni e in cui l'attrazione poi finisce, lascia spazio ad altri sentimenti, e poi arriva una persona che è questa persona. Ho vissuto veramente con il corpo, ho sentito, l'ho confusa forse con l'amore, però l'amore e l'attrazione andavano assieme, e questo mi ha fatto sentire benissimo. Siamo proprio in conclusione. Con questo mi dannerò per sempre l'esistenza, ma lei sente come colpa il fatto che questa uscita dal seminato sia dovuta alla carne, deve appiccicarci vicino la parola amore, o potrebbe andare per la sua strada con le sue gambe, semplicemente dicendo: ho sentito profondo e passionale il richiamo della carne e l'ho seguito? Può andare benissimo con le sue gambe, può andare benissimo, perché quando questa persona ti manca il suo odore, il suo profumo, il tatto, tutto quello che questa persona ti richiama. Non ti mancano le sue parole, ti manca di più la sua presenza. Beh, finalmente questa mattina siamo riusciti a far risorgere la carne così dannata da una società e da un momento storico in cui sembra che sia al centro di tutte le attenzioni, ma in realtà ce la siamo dimenticata tutti. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.